Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave, puntata del mercoledì. Stasera abbiamo i Rastis. Avete fatto un buon viaggio? Ottimo. Ottimo, grazie. Viaggio. Sono molto contento. Io ringrazio Alberto Prisco, il nostro organizzatore, che vi ha letteralmente portati qua in radio. Faremo un concerto sulla vostra musica, soprattutto sulla vostra musica, non soltanto come tribute band. Voi siete una tribute band famosa, però a me interessa il disco nuovo che avete fatto, vostro disco praticamente di inediti, 10 inediti veri e propri. Benissimo. Per cominciare, l'idea, come è venuta l'idea di fare un disco di 10 inediti oltre alla tribute band? In un posto a Bergamo, una specie di cantina, è vero? È così, sì. Marco? No, è uno studio molto attrezzato. L'idea c'era da sempre, direi quasi da quando i Rastis sono nati, perché noi siamo nati sì come una cover band di Neil Young per il gusto, il piacere, il divertimento del suonare quella musica, e per tanti anni abbiamo fatto quello. Però le canzoni c'erano già, direi, quasi dagli inizi. È stata solo questione di avere neanche il coraggio, ma più che altro la voglia di mettersi a rischiare, a fare una cosa nuova, perché per quanto noi abbiamo un background di 15 anni quasi come tribute band di Neil Young, quello che ci premeva era che con quest'album emergesse la personalità del gruppo e le canzoni originali, cioè svincolate dal modello Neil Young. Sì, esatto. David Sapienza in una presentazione aveva scritto che siete più Neil Young di Neil Young. Sì, a volte. No, questo è nato primo perché abbiamo un album che abbiamo ironicamente intitolato Younger than Neil, che può perfetto. Essere più young di Neil, ma anche più giovani di Neil. E l'altro è perché noi abbiamo sempre, di Neil Young abbiamo colto lo spirito, cioè noi non ci preoccupavamo di rifare le canzoni uguali a come erano sui dischi o come le faceva lui dal vivo, quanto invece carpire dalla canzone lo spirito, quello spirito lì che c'ha Neil Young quando suona con i Crazy Horse, ma anche con altri artisti, ma che non è solo di Neil Young quello spirito lì, cioè il modo di affrontare un repertorio. Tant'è vero che noi di Neil Young abbiamo scelto delle canzoni che più si adattavano allo stile dei Rastis, fin da principio. Quindi ci sono certi brani di Neil Young che non abbiamo mai affrontato perché non sono nelle nostre corde comunque. Detto questo, appunto, visto che ci avevano detto già ai tempi di Neil Young che eravamo una band con una spiccata personalità sulla materia musicale, cioè il modo di trattare le canzoni, visto che avevamo anche le canzoni, abbiamo detto, bene, mettiamo a servizio questa presunta abilità con il nostro repertorio. E il primo risultato è quest'album, che si chiama Move Along, che è uscito già ormai da diversi mesi e che ci sta dando belle soddisfazioni. Prodotto da voi, costruito da voi, arrangiato da voi. L'altra cosa bella dei Rastis è che facciamo tutto in casa, famiglia. Nel senso che non abbiamo management, non abbiamo produttori, non abbiamo niente al di fuori, cioè non possiamo contare sulle forze di nessuno se non sulle nostre. Questo è un vantaggio da un lato, nel senso che ci permette di fare esattamente quello che vogliamo, quando vogliamo e nei termini che vogliamo noi, perché non è un mestiere con cui paghi le bollette del telefono, e quindi insomma si capisce che per gente di mezza età che va in giro a fare rock and roll diventa anche un impegno non da poco. Insomma, gestire le situazioni. E poi ci permette di fare quello che ci pare anche a livello musicale, perché un disco come Move Along in Italia non sarebbe possibile produrlo se uno non se lo fa per conto suo, perché le logiche della produzione discografica sono completamente diverse, perché i risultati, le tecnologie che si mettono in campo, come dire, le energie che vanno a fare un prodotto discografico oggi portano in direzione completamente opposta a quello che noi come dire, concepiamo come il fare musica. Quindi adesso questo potrebbe sembrare una presa di posizione passatista, nel senso, piace fare musica come quelli di una volta. Un po' è così, ma non è solo quello. È che se poi andiamo a vedere i grandi classici del rock, tutt'oggi rimangono quelli legati a un certo periodo, e questo non è un caso. Se quando si parla di rock si parla ancora di Led Zeppelin, di Pink Floyd, Beatles, o insomma Grateful Dead, Neil Young appunto, Bob Dylan, insomma poi ci sono tutte le idee, ma andiamo sempre, è difficile citare come modello di da prendere a modello rock un gruppo contemporaneo, ecco, di questi giorni mi vengono in mente per esempio, non so, gli U2, ma stiamo parlando di un gruppo che ha 30 anni, perché, per cui ecco. Sulle spalle, sì. Esatto. E una cosa, tu hai detto giustamente, c'è un ritorno, c'è gente che vuole fare i dischi come una volta, come mai secondo te? Perché in quel tipo di approccio c'è una verità che nella musica come viene approcciata oggi evidentemente non c'è, o comunque è un tipo di sensibilità diversa. E comunque il discorso che stiamo facendo noi è prettamente italiano, perché se andiamo negli Stati Uniti è pieno di band che suonano modernamente alla vecchia maniera. Alla vecchia maniera. Prendiamo, non so, mi vengono in mente, per citare i più recenti, My Morning Jacket. Certo. O che ne so, gli stessi Pearl Jam, sì, volendo, Pearl Jam, col disco che nuovo. Comunque non sono un gruppo di oggi, ma no, sono venuti fuori 20 anni fa, però sono tuttora splendidi, splendenti. I Government Mule, esattamente. Sono un gruppo straordinario che viene da quella cosa lì, anche se sono di adesso, molto contemporanei, ma hanno un sound fortemente legato agli anni 70, primi anni 70. Stasera siete di formazione in trio praticamente, due chitarre acustiche, Osvaldo e Marco, e Giada al violino. Bellissimo, suona il violino in radio, è una cosa meravigliosa, secondo me, dà un effetto strepitoso. Questa è la versione ridotta e ingentilita dei Rastis. Soprattutto perché, ingentilita. Perché noi di solito siamo un quintetto piuttosto ruvido, sia nelle maniere che nel sound che produciamo. Invece stasera la dolce presenza di Giada Salem al violino, che ringrazio di essere con noi, special guest, ha già suonato anche sul disco. Certo, è da un po' che ci frequentiamo, ci rende un pochino più addolciti. Possiamo citare gli altri componenti, Marco, della band? Senz'altro, fondamentali. Con i Rastis fin dalla prima data, dall'inizio, ci sono Dario Filippi al basso, Paolo Guerini alla batteria e recente acquisto ma amico di lunga data, Massimo Piccinelli alle tastiere, pianoforte. Marco Grompi e Osvaldo. Marco Grompi, chitarra e voce, e il maestro Osvaldo Ardenghi alle chitarre e altri strumenti a corda. Ad altri strumenti a corda, è giusto questo, è fondamentale. Allora, per iniziare il discorso sui Rastis, col disco Moving On, no? abbiamo deciso di sentire la traccia iniziale. Non è la traccia iniziale, o la traccia iniziale l'abbiamo scelto? L'abbiamo scelto, mi pare, Move Along. Una volta si chiamava la title track, si chiama la ancora title track, sì, non è la prima del disco, ma è la traccia 3 dell'album, ma è il pezzo che intitola il disco per diversi motivi. Il primo di tutto perché ci piaceva l'idea del Move Along, cioè vai avanti, esatto, muoviamoci, andiamo oltre, che rappresenta anche il percorso dei Rastis alla luce del decennio come tribute band di Neil Young. E poi perché è una canzone che io ho scritto tanti anni fa e cantavo una volta con Cristina Donà, abbiamo suonato assieme per diversi anni, e mi sembrava una canzone che il suo timbro vocale, la sua gentilezza interpretativa e la sua grande sensibilità artistica, perché al di là che è un'amica, è comunque una delle artiste che più stimo in assoluto sul panorama italiano e anche internazionale, direi, accettato volentieri di cantarla, e noi ne siamo ben felici, nel senso che l'ha resa ancora più bella di quella che potevamo renderla noi. Qualcuno ha detto che l'ha colorata, io sono perfettamente d'accordo, l'ha colorata in modo personalissimo, l'ha colorata, cioè come l'hai reinventata, posso dire questo? Sì, c'è da dire che Cristina ha una voce straordinaria ed è soprattutto un interprete, cioè un modo di usare la voce veramente toccante in certi... Basta prendere uno qualsiasi dei suoi, sì, dischi, certo, per rendersene conto. Sono contento che abbia cantato questa canzone, perché era una canzone che aveva bisogno di quel tipo di approccio, perché col suo timbro l'ha resa più calma, serafica, pacifica, esortativa, insomma. Ecco, esattamente, esortativa. Ed era quello che mi premeva passasse di quel pezzo, quindi al di là che l'ha cantata divinamente, calzava a pennello proprio. Bene, allora apriamo la finestra cominciando da questo pezzo. Rock Wave, l'onda del rock. Found they are gone along. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ricordo che state ascoltando Rock Wave 22-25 in diretta. Citiamo il nostro staff: Michele Toson in regia, il mitico nostro regista, Alberto Prisco che è il coordinatore, e Roberto Baldi che ha curato le telecamere, Agostino per la fotografia e le mitiche nostre tre redattrici femminili, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia che ci seguono. Dove sono? Non ci sono, però sono nel. Non ci sono, però ci sono. E ho visto che c'è una presentazione fatta da voi stessi dei pezzi, molto interessante, adesso la citiamo, cosa dite? A proposito della title track, ecco come la voce di Cristina può trasfigurare una semplice ballata folk, intima e malinconica, e un'esortazione che contiene qualcosa di assolutamente magico, che ha commosso i Rastis. Ha commosso anche noi, ma non solo i Rastis, chiaramente. È proprio così, no, praticamente? Eh sì, cioè noi eravamo lì in studio mentre lei la cantava, e quindi era, insomma, abbiamo capito che veniva bene, insomma. Insomma, sì, non ho altro da aggiungere. Cioè nel senso... Ma i pezzi come sono nati a questa cantina, per modo di dire, questo studio di registrazione? No, lo studio non è una, si chiama Cavo Studio perché era una volta era una cella frigorifera, ma è enorme, e c'ha i muri spessi tipo mezzo metro, quindi è un posto completamente piombato, chiuso dentro. E c'è addirittura la porta, quella con la, non so come si chiama, quell'affare che chiude a pressione, flop, proprio. Si chiude tutto. Volendo ti chiudi dentro lì, non ti trovano più. Perfetto. Per cui fuori non dà fastidio, non c'è rumori, eccetera. L'unica controindicazione è che non ha nemmeno una finestra, quindi è tutto aria condizionata, eccetera. Ma al di là di questo, è uno studio eccezionale, molto ben attrezzato, con una sala di ripresa molto ampia, dove volendo si può fare anche un'orchestra. C'è un pianoforte a coda molto bello e soprattutto è gestito da due persone che conosciamo da tempo. Il tecnico del suono e responsabile dello studio è uno dei migliori, secondo me, tecnici del suono in circolazione in Italia oggi, e nello studio lavorano molto sul jazz, su anche musica etnica, hanno fatto diversi album di musica cubana. La più grossa produzione che è uscita da lì è stato il grande successo di Mario Biondi di qualche anno fa, e insomma non è una cantina, è uno studio vero e proprio. Quindi, la cantina si promuove di adesso, abbiamo capito. È uno studio dotato di tutti i comfort della tecnologia moderna. Perfetto. Quindi i pezzi sono lati là, però sono pezzi vecchi, come tu dicevi. No, i pezzi li abbiamo registrati lì, ma i pezzi in realtà erano già nati da prima. Ecco, proprio pezzi nati in studio, forse By Your Side di Osvaldo è stato un pezzo che abbiamo costruito in studio, nel senso che avevamo la musica, poi abbiamo detto ma vediamo cosa viene, l'abbiamo registrato, abbiamo detto ma però sta uscendo un bel pezzo, e da lì abbiamo scritto un testo e insomma è nata la canzone in studio proprio, cioè mentre lo registravamo. Ma gli altri pezzi erano pezzi che già avevano una loro ben precisa identità e che erano già nell'aria da tempo, cioè qualcuno lo provavamo nei soundcheck, qualcuno già dal vivo li suonavamo quando capitava, altri invece li abbiamo affrontati ex novo in studio, ma erano pezzi che comunque io avevo già scritto alcuni anche molti, ma molti anni fa. Qui forse su alcuni pezzi, però magari è il caso di due paroline, ma insomma non... vengono da un accumulo di materiale che arriva da tanto tempo. Poi il disco l'abbiamo registrato tutto in sei mesi, ma non sei mesi in studio, cioè sì, beh, chiaramente sì. Nell'arco di sei mesi. E quante canzoni avete lasciato perdere fuori? Per motivi? Per motivi di spazio, ne abbiamo lasciate fuori quattro, ma che non sono seconde scelte, cioè tant'è vero che sono già quelle su cui stiamo lavorando per il prossimo album. Le abbiamo lasciate fuori solo perché non erano, non si accostavano bene con le altre. Ma dentro queste quattro ce n'è almeno due, ma forse anche tre, che sono tra le canzoni che saranno le canzoni forti del prossimo album, più altre che abbiamo in ballo, che avevamo anche prima ma che abbiamo deciso di affrontare dopo. Insomma, di materiale ne abbiamo fino a mai, sì. E l'improvvisazione quanto conta nel discorso del live rispetto al disco ufficiale? Allora io però questa è una mia tendenza particolare, considero il disco in maniera completamente diversa da quello che è il live, nel senso che il disco è una cosa che resta e rimane, e io non lo so questo disco dove va a finire, chi lo ascolta, tra 20 anni magari qualcuno salta fuori, insomma il disco rimane, il live passa. Ho capito. Quindi la performance, come dire, possiamo permetterci anche di non essere perfetti nella performance, proprio perché a noi piace cercare l'improvvisazione. Ci sono alcuni brani che abbiamo in scaletta, anche alcuni da diversi anni, che hanno proprio una forma aperta, cioè c'è la strofa di ritornello, sappiamo per i primi 2 minuti cosa succede, per i restanti 15 no, e da lì ogni sera viene fuori una cosa diversa. Magari su 10 sere, 2 viene una cosa orrenda, altre 2 viene una cosa che dici vabbè, che gruppetto da oratorio, e poi invece magari quella sera viene una cosa bella che dici usti, questo è quello il momento per cui vale la pena suonare. Poi dipende da tanti fattori, dal posto, dal suono, dalla situazione. E Giada che importanza ha avuto nel live, questo sviluppo? La storia di Giada con i Rusties nasce... Come era? Per il disco. Sì, no, è capitato che abbiamo suonato assieme una sera, invitati da un'amica comune, e abbiamo suonato assieme qualche pezzo. Io mentre suonavo, se c'avevo il violino nell'orecchio, dico, però sta bene il violino. Sta bene il violino, eh? Era già un po' che ci pensavo io il violino, ma prima, insomma, prima di trovare una persona giusta, la violinista, non è che uno va a cercare una violinista professionista, dice qui voglio il violino, quindi chiamo il violinista. È stato un incontro al momento giusto, perché in quel momento stavamo chiudendo il disco e quindi stavamo mixando le cose, e su un paio di pezzi ci andava il violino, e ci andava il violino con la sua intenzione, con la sua sensibilità. E quindi sono stati messi su questi 2 pezzi, e quindi quando andiamo in giro a suonare possiamo permettercela, la invitiamo volentieri a suonare quei 2 pezzi e anche altri, che adesso altri, man mano abbiamo visto che il violino ci sta e possiamo usarlo anche di più, insomma. Okay, benissimo. 22:31, ricordo che ci sono anche le telecamere, quindi diretta rockway.altervista.org, ci potete vedere e sentire stasera. Sentiamo un altro pezzo da disco e poi cominciamo la nostra cavalcata live. L'altro pezzo che hai scelto, che avete scelto? Mi pare che sia la numero 6, traccia che è Low Spirits, esatto. Sì, questo pezzo sì, l'ho scelto perché è fondamentalmente un pezzo che assolutamente non possiamo riprodurre in versione acustica, perché è un pezzo dalla forte matrice elettrica, ed è forse il pezzo dove più si sente il nostro legame con il Young, col passato, con un certo tipo di sound che si avvicina a quello dei Crazy Horse, e comunque è un sound che ci appartiene, che ci piace, che doveva essere nel disco, esatto, che ci viene spontaneo, ecco. Quindi come dire, il passo nostro è quello lì. Se dovessimo suonare ad occhi chiusi per 4 ore suoneremmo quella roba lì. Quindi quello era il pezzo cioè la canzone nonostante la canzone preesista ai Rusties di almeno 15 anni, perché è un pezzo che ho scritto, mi vergogno a dirlo, quindi non lo dico, ma è proprio un pezzo nato per essere suonato in quella maniera lì, cioè avevo proprio in mente i Crazy Horse quando scrivevo quella canzone, quindi ok. Rock Wave, l'onda del rock. Story might seem hard to tell. of the cities, the mountains, the countries, and above every man. He's always been a traveler, he's always been true, and maybe he's coming to you. Above the cities, the mountains, the countries, and above every man. He's always been a traveler, he's always been true, and maybe he's coming. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, spieghiamo l'arcano allora, cosa dici? Sì, ovviamente io non mi ricordavo la sequenza esatta delle canzoni sul nostro CD e me ne scuso. Tutto quello che ho detto prima non vale per questa canzone perché era evidentemente un'altra. Quella che abbiamo ascoltato invece è Above Every Man, che è una canzone che vede brillare Stella, sì, Giada Salem al violino. Al violino, bravissima tra l'altro, e che ha un collegamento, un ricordo a Brava Jackson, come dice Carlo Massarini, ha sempre detto Carlo Massarini. Sì, mi piaceva molto il concetto espresso nella canzone For Every Man di Jackson Browne, dove esatto. Parla appunto di un uomo generico, cioè l'uomo comune, l'uomo della strada, ma comunque l'uomo comune. L'uomo comune, sì. Quindi Above Every Man è una canzone di cui non so spiegare il senso, perché è una cosa un po' così. Volevo parlare dello stare al di sopra dell'uomo comune, ma è una canzone che parla di un po' mistica, anche se vogliamo, ma non ha interpretazioni oltre quello che è la canzone. Che è la canzone. Perché volutamente un po' folk, un po' irlandese tra virgolette, sì. Perché aveva quel ritmo lì in sei ottavi, che è molto irlandese. Sì, certo. Quindi a me ha subito suonato il violino in testa. Da benissimo. Quindi mettendo il violino è diventata proprio quella, ha tirato fuori la natura della canzone, che era quella. Io ci avevo pensato, non so se esistono ancora, potrebbe anche essere un piccolo singolo, un singolo trainante o no, cosa dici? Io l'ho sentito così. Volentieri, a me piace pensare le canzoni ognuna con un suo perché. Cioè, le canzoni di questo album sono tutte anche parecchio diverse tra di loro, e questa secondo me è una ricchezza, nel senso che io mi stanco mortalmente a sentire per 40-50 minuti un disco che suona uguale dall'inizio alla fine, con uno o due stilemi interpretativi che sono quelli. La maggior parte di un certo rock, questa cosa, questo difetto ce l'ha. Quindi io preferisco i dischi vari, certo. Cioè Sgt. Pepper, cioè dove che si passa dal minuetto classicheggiante alla psichedelia più d'avanguardia, insomma. O comunque il disco che ogni canzone ha un suo panorama sonoro, un suo colore. Above Every Man ha questo colore vagamente irlandese, ed è l'unica nell'album che ha questa cosa. A proposito di colori, molto bella copertina, molto colorata, la possiamo anche far vedere, so che ci siamo. Verso, qual è la telecamera? La telecamera. La 1 o la 2? Dammi la 2. Comprate questo disco. È molto bella la copertina. Chi l'ha fatta la copertina? Allora, la copertina è stato un concept che è venuto a mia moglie, fondamentalmente. Un giorno che guidavamo per la strada di montagna, ha visto quei cartelli col con l'incervo che salta, che vuol dire, immagino, state attenti che vi attraversa la strada un camoscio. Mai successo che sia capitata una cosa del genere. E lei dice: ah, ma pensa che sarebbe bello fare una copertina dove l'idea del move along, cioè dell'andare oltre, quindi questo camoscio che salta fuori dal recinto del proprio quadro, certo, cioè del cartello stradale, quindi che esce dal suo ambiente, si butta in una cosa, un salto nel vuoto, cioè come dire proprio una, ma sì dai, usciamo da qui, track, e quell'attimo fuggente che ti spinge a fare una cosa anche rischiosa o insensata. E da lì allora mi è venuta di accostare appunto l'idea iperrealista del cartello stradale con un paesaggio invece esageratamente finto, quindi un po' psichedelico, molto colorato. Anche qui in questa copertina si può vedere un riferimento, sì, ai Beatles, se vuoi, di Yellow Submarine, aveva un po' tipo questo tipo di grafica. E quindi l'idea del cervo che, per rispondere alla propria natura selvatica, si libera dalle costrizioni del cartello stradale, esatto, e si getta in, esatto, una realtà virtuale, perché è tutto finto, c'è una strada che porta verso il sole, insomma c'è il salto verso qualcosa di ignoto ma molto colorato, attraente e piacevole tutto sommato. A proposito di sole, visto che adesso ho eseguito un brano, si chiama Eclipse, e tu mi hai scritto... Scusa, un secondo, tutto questo è stato tradotto in grafica da Ilaria Scattina, che è una... valente pittrice, decoratrice, art director, nonché una talentuosa cantautrice che ha fatto la grafica dell'album. Bisogna dirlo, giustamente. Allora, ritornando al discorso dell'eclipse, questa eclissi solare, lei è proprio concepito là, vera, in una propria eclissi solare, a quanto scrive nelle note. È esattamente la verità. Non mi ricordo adesso, forse i più informati potranno cercare quando si è verificata l'ultima eclisse solare totale in Italia. Doveva essere tipo 98, 99, quegli anni lì. E mi ricordo, abbiamo tempo, no? Abbiamo sempre tempo, non c'è problema. E mi ricordo che era una mattina, era prevista la totale eclisse alle 11 di mattina. Io quella mattina lì non avevo nulla da fare, ho detto: ma guarda che bello, vado a vedermi l'eclisse totale di sole su una collinetta lì vicino dove abito io. Voglio andare in un posto dove c'è poco caos, vedo il bel panorama, c'ho il bel sole davanti. Era una giornata non proprio limpidissima, però insomma. Ho preso con la moto, mi sono inerpicato sulla collina, mi sono seduto lì nell'erba e ho aspettato l'ora, tipo 20 minuti, che arrivasse questa eclisse solare. Allora, nel momento in cui si è verificata l'eclisse, è stato come se tutto, ma dico proprio tutto, si fermasse. Non c'era più vento, non sentivi più gli uccellini, le macchine in lontananza non c'erano più, c'è un attimo di immobilità assoluta. Questa cosa qui mi ha colpito, non so se era l'autosuggestione o che cosa, ma io non è che ero andato lì per vivere un'esperienza mistica o una cosa del genere. Ho detto: vado a vedermi l'eclisse di sole, capita una volta ogni 2000 anni, adesso non so. Però, e quando sono tornato a casa ho detto: accidenti, ma cioè quell'attimo lì mi ha colpito, era come se di fronte a un movimento astrale anomalo, rarissimo e comunque non previsto, insomma, previsto dalle leggi naturali, ma insomma tutta la natura e tutto quello che l'uomo ha creato si è fermato di fronte alla grandezza di un evento del genere. Quella cosa lì mi ha colpito e ho cercato di mettere in questo sentimento in questa canzone. Ok, adesso la sentiamo. Allora. Partiamo fra qualche secondo. Rock Wave, l'onda del rock. For the sun to come back to the place where it once was, all of the creatures stop and stare into at the cold shade of the moon. Astral movements here skim the atmosphere. There's my space up there gates of Eden disappear. Upon this lonesome dark hill, engines and faces stand still when fears like clouds appear. I'm thinking about the age of mankind and about how many could live up to that. The silence grows even louder as if our time came long before. Astral movements here slash the atmosphere. There's much space up there since the gates of Eden disappear. Upon this lonesome dark hill, humans and nature stand still when fears like clouds appear. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci avete proprio trasportato, io e Alberto abbiamo, eravamo in sintonia, ci avete proprio trasportato in questo pezzo. Una bellissima. Bella situazione, ci si diverte. Esatto, una bella situazione veramente. E sì, ritornando al discorso che, di presentazione del pezzo, tu hai scritto, voi avete scritto: la natura, l'uomo e tutto ciò che l'uomo ha creato e devastato rimangono ancora una volta impotenti, attoniti al cospetto di movimenti astrali. Sì, astral movements here skim the atmosphere, cioè i movimenti astrali visti da qui sembra che accarezzino l'atmosfera, cioè un effetto così, cosa devo spiegare? Cioè, certo, mi è venuto certo. Vedendo l'eclisse. Esattamente. Quindi, anche qua ci avete trasportato sì, in questo momento. È come se ci sentissimo piccoli di fronte a... cioè basta che la Luna passa di fronte al Sole per 2 minuti tutto si ferma, gli uccellini dicono cosa succede, certo, cioè, è un attimo in cui anche gli uomini si mettono lì, io mi sono preso mezza mattina per andare a vedere sta cosa, quindi cioè, tutto si è fermato, ho avuto quella sensazione lì, insomma. Benissimo. Live, quella l'abbiamo eseguita live acustico, live elettrico com'è? Come succede? Cosa succede su questo pezzo? Su questo pezzo suona come il disco, cioè perlomeno assomiglia di più al disco. Noi abbiamo la fortuna di avere una sezione ritmica veramente formidabile, che sono Paolo Guerini alla batteria e Dario Filippi al basso. E proprio nell'indole, forse Osvaldo vuol dire qualcosa. Osvaldo vuol dire qualcosa, dai. Sono due macchine. Sono due macchine perfette. Hanno, il bassista ha una portata di brano eccezionale. Il batterista è un drum machine un po' più moderno. Cioè, in che senso? I batteristi degli anni 70, 60, 70 tendevano molto di più a colorare durante i cali di dinamica. E invece lui cala di dinamica senza colorare, anche un po' più inesperto rispetto a noi. Però c'è un cassa rullante, secondo me, come pochi. E questo ci permette di andare avanti all'infinito, dove vogliamo, che loro ci sono sempre, sono proprio sempre perfetti. Ho capito. Sì, una presenza ritmica importante. Cioè, nel senso che sia per lo stile del batterista e per la bravura del bassista, che io non, anche giusto perché non è presente, posso dire che secondo me è il miglior bassista in Italia. Ah, okay. Perché è veramente un grande bassista dal punto di vista proprio dell'intenzione sui pezzi, sul tutto. Quindi è un gruppo, capisce il groove immediatamente, capisce immediatamente dove vogliamo arrivare quando... Ecco, c'è da dire che con una sezione ritmica del genere il tutto diventa piuttosto, non dico aggressivo, ma con un più massiccio, importante, insomma. Più massiccio. Noi abbiamo un volume di suono adeguato, naturalmente abbastanza presente, insomma. Certo, adesso certo. Sappiamo fare anche i pezzi morbidi, chiaro, dire. Però l'impatto è importante, come nel rock deve essere. E la partecipazione di questo straordinario chitarrista che è Robby Zonka, poco amato in Italia, non capito forse. Sì, Robby Zonka è uno di quelli che se fosse nato in Louisiana o nel Tennessee sarebbe uno dei più stimati chitarristi di ambito pop blues. È un pop blues, decisamente pop, blues. Pop blues. Perché lui ha un'anima, cioè lui suona blues fondamentalmente, ma ha un'anima pop estremamente sviluppata. È cresciuto a pane Beatles e quindi e lo senti, perché tutti i suoi pezzi partono da una matrice blues, ma all'interno della canzone hanno quella deviazione, questo a livello compositivo, quella deviazione pop che è proprio tipica di chi sa costruire una canzone nel modo giusto. E poi ha il tocco sulla chitarra che è straordinario, è veramente un chitarrista dotato di un gusto incredibile. Lui suona su due brani, sì, dell'album e tra l'altro due brani che non conosceva, perché noi lo conosciamo da tempo, abbiamo anche già collaborato assieme, abbiamo suonato insieme anche in trio acustico, io, Osvaldo e Robby Zonka, in alcune date dalle nostre parti, ma le due canzoni su cui ha suonato non le aveva mai sentite, e sono entrambe praticamente la prima take, cioè lui ha ascoltato il pezzo e ha detto va bene, entro subito, fammelo provare, noi abbiamo registrato anche la prova, poi ha detto va bene, ne faccio un'altra, ma era già buona la prima, certo. E forse abbiamo tenuto proprio anche la prima, cioè uno che capisce subito lo spirito del pezzo e ha un gusto incredibile, un tocco su una canzone, in particolare You'll Never Know, l'ha caratterizzata, certo, molto con i suoi interventi di chitarra, e sull'altra, che è Trax, invece ha messo una delle tante chitarre che abbiamo alla fine e ha cantato anche i cori. Anche un grande cantante. A proposito dell'anima blues, anche Osvaldo ha un'anima blues, secondo me. Cosa dice Osvaldo? Un po', però io sono un po' più rock, un po' più aggressivo di Robby Zonka. Ho capito. Meno tecnico, meno raffinato, ma preferisco qualcosa di più pesante. Oppure di molto più tranquillo, psichedelico o a livello vocale. Mi piacciono molto i cori, le armonie vocali. Sì. Benissimo. Poi di cori e atmosfere. Adesso chiaramente facciamo sentire un altro pezzo live, cosa dite? Sì, facciamo The Show. Facciamo The Show, che è un pezzo. Ne parliamo dopo, dai. Sì, facciamo le basse. Pronti? Rock Wave. L'onda del rock. Everything's ready. parts, you know it's your life. It's up to you if you wanna play your loop, and all it's written in the book. But you better know that if you sit down here, you pay the price and go Sono le 23 e 0 minuti. Spot. Focus. L'attualità dal Veneto. C'è un'attualità diversa su Blu Radio Veneto e Focus, la trasmissione in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8:15 minuti, dove la notizia è commentata dagli stessi protagonisti. Vi aspetto. Focus. L'attualità dal Veneto. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Come 4, il numero 4. Sì, si rattraccia il numero. Dopo parleremo anche della traccia numero 4. È nata come 4. Ok, allora parliamo un momento di questo pezzo. The Show. Avete scritto nelle note di copertina, nelle note del pezzo per pezzo. Ma quando lo show è finito, devi gettar via la maschera. Sì, questa è una canzone che io ho scritto nell'86. Quindi una canzone che ha una, una certa canzone età. Che ha 25 anni praticamente. Che non li dimostra. E non li dimostra. Questa è la cosa interessante. Io l'ho ripescata per quest'album perché è una canzone che parla di una rappresentazione. Ed sì. Ne parla in maniera generica. Cioè si parla di uno show, si parla dei ruoli che i vari, come dire, impiegati dello show devono sostenere. Quindi c'è l'attore, ma c'è anche il regista, ma c'è anche il costumista, l'elettricista, sì, o insomma il carpentiere, insomma, certo, quando mettono insieme uno show ci vogliono diverse cose. La cosa in pratica tutto il parallelo è la vita come uno show, cioè quindi all'interno della propria esistenza, o insomma dell'esistenza di tutti, ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha alla sua come dire mansione, e... però c'è qualcuno che non sta alle regole, cioè che le si mette una maschera, cioè mettersi la maschera ti permette di vivere o comunque di recitare la tua parte, ma ti permette anche di nasconderti dietro qualcosa che quando lo show finisce però la maschera te la devi levare. Certo. Allora, se vogliamo vedere tutto questo come una metafora della scena politica italiana degli ultimi 10 anni, allora c'è qualcosa di vero in questo pezzo anche oggi, siccome era appunto una canzone che parlava in maniera così distaccata di questa cosa. E non a caso è stata scritta nell'86, che se vogliamo guardare poteva essere ancora un periodo molto simile a quello che stiamo vivendo oggi. Quindi, come dire, è un pezzo che mi sembrava di attualità. Comunque mi sentivo di cantarlo con voglia di farlo. Insomma. Quindi l'hai inserito nella scaletta giustamente, sì, del disco. Ok, adesso facciamo il solito nostro giochetto, velocemente, perché vogliamo anche far sentire molta musica. I 5 dischi da portare su un'isola deserta. Ci siamo messi d'accordo prima, non sarebbe come regola, di solito io non spiego mai niente, lo spiego al momento giusto, però stasera ho deciso di far così. Sì, vai, si può cambiare in corsa? Sì, possiamo cambiare in corsa, vai te Osvaldo. No, che dipende sempre dallo stato d'animo comunque. Vabbè, ci eravamo messi d'accordo. Io ti ho detto i miei. Certo, certo. Allora, Life at Fillmore's degli Allman Brothers Band lo metto al primo posto. È un pezzo incredibile, forse il più bel pezzo live, il più disco live esistente secondo te? Secondo me sì. Perfetto. E Duane Allman, adesso fanno le classifiche, ma non so quanto è importante. Penso che dopo Hendrix, ma secondo me a tratti era anche meglio come chitarrista. Certo. Hendrix era più creativo, più psichedelico, un po' diverso. Ma Don Allman è un chitarrista secondo me eccezionale, è durato poco ma è bastato così. Esatto. Dopo probabilmente avranno detto adesso andate avanti voi. Chiaro. Poi metto Waiting for Columbus del Little Feat, un altro live, un altro gruppo straordinario. Little Feat. Il singolo di Crosby, My Name, sì. Esatto. E poi metto, ci sarebbe anche Four Way Street, perché sono un disco sono molto affezionato. Esattamente. Sono molto affezionato. Anche se può sembrare più bello un Dark Side of the Moon o altri dischi come produzione, come idea. Come... Certo, sì. Però secondo me Four Way Street è un grande disco. Leggermente storto, mai proprio preciso. È umano. Erano umani a quel momento. E poi facciamo una parentesi anche per gli italiani, ma io ti avevo detto che avevo le 5 canzoni. 5 singoli. 5 singoli, più che portarmi con me questi 5 singoli, sono 5 canzoni che io avrei voluto scrivere. Ecco. E la prima è La fotografia di Enzo Iannacci. Bellissimo. Il dilemma di Gaber. Di Gaber. La nevicata del 56 di Mia Martini. Di Mia Martini, che è scritta da Califano. Esatto. E poi metterei, ti porti una canzone del Califfo sull'isola deserta. Sì, una canzone del Califfo ci vuole, ma no, ma a parte che Mia Martini mi faceva dire la pelle d'oca, ma se fosse nata in America avrebbe avuto più fortuna, sarebbe certo. Stata una star assoluta, sì, una cantante strepitosa, certo. Di anima, esattamente. E poi vabbè, qui c'è la cosa del biglietto per l'inferno, che io sono un fan del biglietto per l'inferno, e metterei La confessione, perché siccome mi ha incute paura. Ha messo il pezzo di Franco Califano adesso. Un pezzo, sì, un omaggio a Franco Califano. Eccolo qua. Ecco, io non avrei mai detto in vita che avrei ascoltato Califano durante una trasmissione dedicata ai Rastis, e mi diverte molto. È bello, bello così. non abbiamo nessuna... No, ma non sono un fan di Califano, però quella canzone lì è bellissima. Beh, lui ha scritto delle cose interessanti, sì, sì. Decisamente interessanti. Quindi Biglietto Belliferro che si sono ricostituiti con una cantante, così ho sentito di sto sabato, andrò a constatare di persona perché verranno in un negozio di dischi a Bergamo. Ah, bene. E vado a far firmare il cofanetto, perché io ho il cofanetto dei due CD, DVD e il libro. Sì, perché noi sotto rimaniamo dei fan. Giusto. Come si può vedere dalla sua la chitarra di Osvaldo, sì. Lo dico per chi ci ascolta. Beh, adesso, con la telecamera la possono vedere. Ecco, mostrala alla webcam. Riporta, sarà messa all'asta dopo la sua dipartita, perché riporta le firme di intanto di Warren Haynes, chitarrista dei Government Mule e Allman Brothers, però, e Grateful Dead e mille altri, e di David Bromberg. Ah, David Bromberg, mitico David Bromberg. Esatto, un chitarrista su cui l'Ardenghi ci ha lasciato molte lacrime e sangue. ho rischiato la galera. E quindi quando ci capita di incontrare, per dire, abbiamo aperto per David Bromberg, certo, a Milano a Suoni e Visioni, e lui è stato carinissimo a darci il nostro spazio prima del suo concerto. Ma poi Osvaldo gli ha messo lì la chitarra e lui l'ha firmato. Come firmare il libretto universitario. Certo. È vero, bellissimo. Beh, è una grande emozione, è un mito praticamente. È uno dei più grandi chitarristi acustici che abbia mai sentito. È veramente. È anche un bravo violinista. Questo non lo sapevo. Perché la prima volta che l'ho visto erano un trio e si alternavano tutti e tre a chitarra acustica, mandolini e violini. Grandissimo David Bromberg. Io ricordo che in Italia era molto famoso in un certo periodo di tempo. Sì. I dischi venivano subito stampati, lui veniva un sacco di volte. Poi è un po' è come Bruce Cock, la stessa cosa. Ma lui si è proprio ritirato dalla vita artistica, nel senso che a metà degli anni 80, dopo i primi anni 80, si è aperto una bottega di strumenti acustici, di luteria, e si è occupato di quello per più di 20 per anni. Molti anni. Poi gli è tornata la voglia di fare. Beh, e tanto in questi 20 anni di ritiro, anche dicono i ben informati, e ho motivo di credere che sia così, ha pure inciso un disco con Bob Dylan. Ah, però. E ha contribuito a far ritornare Dylan a farlo suonare in acustico con i due dischi che ha fatto agli inizi degli anni 90. Certo. Ma i ben informati dicono che c'è un intero album di David Bromberg e Bob Dylan prodotto proprio da Bromberg. Quindi, ecco, da un altro punto di vista, lui ha avuto la sfortuna che Dylan non l'ha mai pubblicato questo disco, sì, è quello, forse sì. ne beneficerebbe anche dal punto di vista economico, soprattutto quello, esattamente. Ma probabilmente è una libidine personale di Dylan a suonare con David Bromberg. Sì, questo è vero. Perché David Bromberg è di una tecnica sopraffine, di un gusto incredibile. C'è l'evoluzione del bluegrass, della musica rurale in lui, leggermente jazzata. Sì, aveva quel fare un po' gezzato. Sì, non era l'introduzione, il concetto era a livello tradizionale, ma poi le evoluzioni erano diverse. Benissimo. Ok, tocca a te, Marco, allora. Far cosa? I cinque dischi. Ah, scusa, stavo ancora pensando a Bromberg. Cinque dischi, allora, visto che Four Way Street già lo porta lui. La porta lui, esatto. Saremo sulla stessa isola, caro. No, mi porto assolutamente... Però il giradischi è mio. If I Could Only Remember My Name. Benissimo. Di David Crosby. The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, O Revolver o Sgt. Pepper dei Beatles. Non possiamo fare commenti su questi titoli, non serve, chiaramente. Siamo già a 4. E poi il quinto, si parlava di un disco italiano. Un disco italiano, porterei Anime Salve di Fabrizio De André, perché secondo me è il più grande disco italiano mai pubblicato. È l'ultimo disco che lui ha fatto, poi purtroppo se n'è andato. Tocca a te, Sara. Giada, non Sara, scusami, Giada. Giada. Allora, adesso vi stupisco con i miei... Con i tuoi dischi preferiti, sì. I vinili preferiti, perché adesso ritornano i vinili. Ce n'è uno che hai detto, non dirlo. Allora, no, voglio dirlo. Ha un legame sentimentale. No, scherzo. Allora, se lui porta Revolver, io porto Sgt. Pepper. Perfetto. O viceversa. Poi, i Pink Floyd, quello che avanza da... Beh, lui ha citato The Dark Side e poi citare qualche altro. Non conosco i titoli degli altri. Ah, non conosco i titoli degli altri. Io, a me piace particolarmente Atom Heart Mother, anche se loro hanno detto di no, non sempre detto di no, le hanno rifiutato, ma mi piace particolarmente. Specialmente il lato 2. È il lato 2, bellissimo. È bellissimo. Però loro hanno sempre detto no, non ci piace, assolutamente, l'hanno rifiutato. Era un periodo difficile per i Pink Floyd. Ma io trovo un capolavoro assoluto. Poi, terzo gruppo, i Dead Can Dance, qualsiasi cosa. Ottimo. Quarto gruppo, vabbè, per essendo una fan nell'adolescenza di Guns N' Roses, mi porto qualcosa. Io ogni 4-5 anni, sì, ogni 5 anni devo riascoltarli. E l'hai sentito l'ultimo? L'ultimo no. Beh, meglio che tu non l'abbia sentito. Ho sentito qualcosa. Meglio che tu non l'abbia sentito. Infatti, ho sentito qualcosa, non mi sembrava niente. Ecco. Questi erano, sì, questi erano quelli che erano un pericolo. Sì, potrei iniziare a imitare Axl Rose. Adesso. Ecco, esatto. Preferirei evitare. Evitare. L'ultimo italiano? Cioè, forse vuoi? Forse un Battisti. Battisti di annata? Sì, certo. Con Mogol o senza Mogol? Ma con, senza, mi piace sempre. Ah, ti piace tutto, sì, praticamente. Sì, sì, sì, sì. Benissimo, quindi abbiamo scelto i 5 dischi da portare su un'isola deserta. Adesso facciamo una cosa molto interessante. Parliamo con Osvaldo e parliamo di un pezzo che Osvaldo aveva scritto. Quando hai scritto questo pezzo, Osvaldo? 2004, penso. Aveva un altro titolo, chiaramente, non il titolo che abbiamo, che è stato pubblicato poi dai Rastis. Sì, aveva un altro titolo. È tutta un'altra fisionomia musicale. Sì, però il contenuto l'abbiamo cercato di tradurre più o meno quello che è il contenuto in italiano, no? Sì, non è letterale la traduzione, nel senso che. Però come dire, lo svolgimento del pezzo è abbastanza simile. Abbastanza simile. È nato da questa canzone, è nata, mi ricordo, un giorno ridevo perché ho detto a mio povero papà: ma io mi sa, ma vado a fare l'hippie. E mi fa: sì, dopo te li mando io i vaglia. Mi fa. per vivere. No, e da allora lì, poi crescendo, poi avendo avuto un figlio così, mi è venuto da ridere pensando a sta cosa, dicevo: tu pensa. Adesso io padre, io figlio, io padre, no, come, e a pensarci vedo come se vai a fare libri devi arrangiarti, certo. No, era un po' questa cosa, ma era più una provocazione a mio padre, e quindi lui mi bloccava subito con questi interventi, e da lì è nata questa canzone che è un po' di stampo cabarettistico. Parliamo delle due anime, l'anima rock, quindi con i Rastis, e l'anima cabarettistica con gli Annacci, con gli spettacoli. No, quella l'ha scoperta lui, perché io non ho mai pensato di fare il cabarettista nella vita. Io ho fatto fino al 90, dal 73 al 94 ho fatto il metal meccanico. Però ho suonato in un gruppo rock, una cover band, facevamo un po' di tutto dall'82 al 94. Era un po' una valvola di sfogo fuori dalla fabbrica, insomma. Certo. Poi ho letto il giornale che c'era Iannacci che apriva un locale a Milano, che allora era il Bolgia Umana. E in quel periodo ho cominciato a fare seratine da solo, così facevo cantautori, De Gregori, De André, Dalla, un po' di tutto. E mio cognato mi ha detto: vai giù, apri una scuola di cabaret, magari, non so, conosci qualcuno. Io ero andato con l'intento che se mi prendono faccio la scuola di cabaret. E invece sono andato giù, c'erano circa un 140 persone in una palestra dove lui insegnava il karate, sai che è un cinturone di, sì, karate. E mi ricordo che c'era un ragazzo di Parma, giovane, molto giovane, avrà avuto 17-18 anni, è venuto lì e fa: guarda, io non sono un cabarettista, non voglio, sono venuto qui perché sono un suo grande fan e volevo conoscerla personalmente. Era un sistema giusto. E aveva lì un disco e fa: se lei me lo firma, il regalo più bello, vieni, ti ringrazio, se vuoi dire qualcosa, ma vengo da Parma, faccio studente, solite cose. Fatto il provino e dopo un mese mi hanno chiamato per farmi lavorare nel locale, ma non ha fatto la scuola perché ci ha presi in tre. A me è un duo di Cosenza che sono Enzo Limardi e Andrea Bove, che sono due grandissimi comici, come parlavamo prima. Certo. E lì poi lui ha continuato le audizioni per 7-8 mesi, ha preso una ragazza, siamo diventati una compagnia stabile di 4 comici, facevamo i numeri singolarmente, un duo, io da solo, lei da sola, o io accompagnavo lei perché dei 4 ero l'unico che suonava, e da lì per 3 anni tutte le sere, dal martedì a domenica, ho cominciato lì, ho lasciato il lavoro, ho cominciato a fare spettacoli e da lì in poi lui ci ha portati un po' in televisione, ci ha portati a teatro, poi ho trovato un'agenzia e ho cominciato a lavorare da solo siamo andati tanti così. E siamo arrivati fino qui, adesso sto cercando ancora il lavoro, se qualcuno che qualcuno. Cioè, il tornio da Fresa li so usare ancora, ho perso un po' la vista sul carico, ma con gli occhiali vi garantisco che, e ho anche il patentino del muletto. Quindi sei a posto. Sei a posto. Sì. Allora, parliamo di questo pezzo, allora, che si chiama? Cerco un'avventura in italiano, però io lo faccio in tonalità. Lo facciamo in tonalità? No, diversa. La suoniamo. Vuoi suonare direttamente? Credo la sentissimo dal disco, la sentiamo dal disco. La sentiamo dal disco. Allora, non so se la precede, un monologhetto, vediamo un po'. Adesso lo sentiamo un momento. Rock Wave, l'onda del rock. Vedrai che si stancherà da sé di tornare all'alba, diceva mio padre. Lascia che si sposi e si faccia un figlio, poi ne parliamo. A parte che non ho mai fatto tante albe come quando ho avuto il figlio. Comunque non ero certo intenzionato a farlo a 84 anni come ha fatto quel tizio. Come si fa a fare un figlio a 84 anni? Oddio, adesso io apprezzo molto il dono della vita. Magari anche della ditta. Ma se gli va bene, bene, bene, a 84 anni fa appena in tempo a raccontargli i nomi dei 7 nani. Me lo vedo già io. Brontolo. Eolo. Mammolo. Infartolo. Patapum. Ho capito io che il figlio è benvenuto nel continente, ma il padre va verso l'incontinenza e la madre ha davanti 10 anni di pannolini. Credevo di averlo fatto tardi io. Dopo birre, rock and roll, fabbrica e football, è venuto il giorno che mi son trovato lì con un figlio, l'uomo ragno e un mutuo da pagare. E pensare che sognavo un jackpot per poi andare in Brasile. Ho lasciato il rock and roll per le ninna nanne. C'ho un bel repertorio, sono in tutte le hit parade. Ho inciso un CD, faccio anche le tournée, perché canto così bene che alla fine dormono tutti con me. Cerco un'avventura, non so se ho paura o se ne avrò. Cerco un'avventura, non so se ho paura o se ne avrò. Non bevo più la birra, preparo i biberon. Frequento il pronto soccorso per finire in pediatria. Uno sguardo in gola, 100 euro e poi altri in farmacia. A comprar la medicina che fa tanto male alla mia pancina. Adesso che il football lo gioco con mio figlio. Ho già rotto 2 acquari, 8 vetri e 3 maniglie. Non ne posso, non ne posso più. Di bianchini, falegnami, pesciolini morti in casa mia. Cerco un'avventura, non so se ho paura o se ne avrò. Cerco un'avventura, non so se ho paura o se ne avrò. Faccio un doppio lavoro, mio figlio adesso è un hippie, mi chiama da Kathmandu, papà sono molto happy, è uno sballo veramente vivere così. Sì ti credo figlio mio, anche perché il bancomat è mio. Adesso nei biberon c'è solamente alcol, si balla in farmacia, ci si cura in discoteca. Il pediatra fa il cubista, alle luci il farmacista, il disc jockey in ospedale, ricoverato per un'ernia al disco. Cerco un'avventura, scusate se ho paura ma ne ho. Cerco un'avventura, scusate se ho paura ma ne ho. Scusate se ho paura ma ne ho. Cerco un'avventura. Scusate se ho paura ma ne ho. His baby needs a cure. Lately I found out that drugs won't ever make you feel that good. I'm a soldier of fortune. I'm afraid of nothing but myself. I'm a soldier of fortune. I'm afraid of nothing but myself. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.altavista.org. Ci potete sentire e vedere 23:25:03. Abbiamo sentito questa versione elettrica, strepitosa, sì. Fulminante. Abbiamo sentito lo stesso pezzo prima e dopo la cura Rusty. Esattamente. Cioè, come era in origine e come è diventata dopo. E comunque, insomma, sì, sono comunque due anime che ci appartengono, cioè l'anima acustica del suonare comunque con l'intenzione da folk e invece l'anima elettrica più rock and roll. È proprio pesante nel senso positivo questo pezzo qua, ci sei andato bene? Sì, sì, ci siamo capiti subito. Okay. Perché lui è venuto da me un giorno e mi fa, ma sai, questo pezzo che io già conoscevo, mi fa, guarda, fa così, si è messo suonando sulla chitarra e come è arrivato al punto... cioè senti proprio gli accordoni dalle Spall e ce li abbiamo messi e... Beh, giusto che sia così, due anime, cioè l'anima acustica e l'anima elettrica. L'anima elettrica è quella importante. Ok, a proposito di anime, adesso andiamo avanti con l'anima acustica. Sono le 23:25, 23:26. Cosa suoniamo adesso? Facciamo un altro pezzo dall'album, si chiama You'll Never Know, che è la canzone che nella versione dell'album c'è anche Robbie Zonka alla chitarra. Lo facciamo in versione acustica, così come vediamo come va. Viene. Prego, maestro. Lonely too. afraid that all my words might scare you away. Is anybody singing sad songs today? Nobody talks about their feelings anyway, without dressing them in singing clothes. I guess it's painful and not fair, and it's more than I can bear. It's more than I can Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Non c'era la chitarra di Robby Zonka, ma c'era il violino di Giada, che è una cosa decisamente bella lo stesso. L'ha sostituito decisamente, in senso, bellissima questa versione. Versione decisamente folk, secondo me, cosa dite? Sì, è anche molto diversa da com'è sul disco, perché... Sul disco è decisamente... un po' più scura, un po' più scura, un po' giocata sui colori, sì, di Robby Zonka, giustamente, sì, che è giusto che sia così, perché è lui l'artefice, quello che incassa, che dà delle tonalità un po' particolari, però è bella lo stesso anche in questa versione. Grazie. Grazie a voi. L'avete ideata qualche ora prima di venire qua, oppure... Questo settaggio acustico, siccome quando andiamo in giro a suonare noi è sempre difficile trovare delle situazioni che ci ospitano. Cioè, quando ci tocca di fare delle aperture per altri artisti è sempre un problema montare la doppia batteria, problemi di amplificazione, soundcheck, eccetera, per cui abbiamo dovuto inventarci una soluzione acustica agevole, facile, certo, per poter fare anche una cosa qui, così non saremmo potuti venire tutti e cinque a fare questa cosa in radio, e quindi con le chitarre e il violino abbiamo riarrangiato alcuni pezzi in modo da poterli eseguire in maniera soddisfacente per noi più che altro in questa formazione. Io pensavo che tu venissi con la tua chitarra elettrica un po' distorta, avevo immaginato questo. Mi sarebbe piaciuto, ma sarebbe stato alquanto fastidioso per gli ascoltatori. No, non penso ascoltare uno che strimpella una chitarra distorta da solo. No, cioè, sì, chiaramente, era un'idea, chiaramente comunque, è una battuta la mia, però avevo immaginato. No, possiamo tranquillamente ascoltare dei pezzi veramente beh, già Soldier of Fortune erano di quelli dove le chitarre ruggivano mica male. Ruggivano bene, effettivamente. Beh, a proposito di ruggire, visto che abbiamo tempo, e l'idea di Rockaway, quella di far sentire la gente quando la band suona, io proporrei un altro pezzo da suonare, cosa dite? Suoniamo. Facciamo Tracks? Che è un pezzo molto easy, se qualcuno ha detto, ma un pezzo pop tra virgolette, cosa dite? Sì, fatto così in versione acustica è ancora diverso rispetto a com'è sul disco. Comunque sia una canzone. Quando ho scritto, mi ricordo il giorno, il pomeriggio che ho scritto questo pezzo, volevo fare qualcosa a metà strada tra i Rem e Springsteen. Perfetto. E mi è uscita questa cosa qui, che non so se rende giustizia né a uno né all'altro. Ma rende giustizia ai Rastis, quello è importante. Trax. Allora. Rock Wave, l'onda del rock. And she tried to light his night. As she looked at him with eyes of green, he almost let her in. The Milky Way, the seashore, stars and fire did the rest. Few things went wrong, the love grew strong and melted in a song. Ooh, baby. Cause together we go fast. You and me, we take a bet. I keep on trying to leave some tracks. But only love should ever last. Last night she said he never had good reasons for his love. But he tried so hard to fix the game, she broke it once again. More traces left healing deep underneath the skin. The pain is gone, the flame is done, the race is not yet won. Together we Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ladies and gentlemen, The Rusties, bravissimi Marco, Osvaldo e Giada, bravissima. Giada ha sostituito in modo divino, possiamo dire, Robby Zucker stavolta. L'hai sostituita Robby Zucker e Paolo Filippi mai, che l'abbiamo presa apposta. Apposta. Abbiamo due chitarristi in uno qui, in una. Bravissimo. In una violinista. Benissimo, io proporrei far sentire adesso un pezzo dal disco per cui vi riposate un po'. Non so che traccia abbiamo scelto. Mi pare la numero 7, che è Low Spirits, che era il pezzo di cui parlavamo prima, quello pensato come se fosse per i Crazy Horse. Ecco, esattamente, quello bello duro, bello, bello alla Crazy Horse. Adesso lo sentiamo e poi ne parliamo ancora, così ci spieghi qualche altro segreto su questo pezzo, ok? Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sorpresa a tutti, sono Stefano Deinese, ciao, sono arrivato in studio un po' in ritardo qua insieme a Maurizio, ma non volevo perdermi questo appuntamento con i Rustis. Sono riuscito a sentire una buona parte dei loro pezzi qui dal vivo, è sempre bellissimo avere i musicisti che ci fanno il piacere di tenerci compagnia con la musica live. E, stavo raccontando così a Marco che un paio di settimane fa Ray Tarantino ci raccontò in diretta come ebbe modo di conoscere il suo idolo Bob Dylan, però a questo punto Marco tu devi raccontarci come hai fatto a conoscere Neil Young, spero in maniera un po' meno spudorata di quella di Ray. Cioè al di là dei concerti a cui sono andato, tutte le disco, quelli ci siamo andati tutti. Cioè l'incontro di persona è avvenuto la prima volta nel 93. Lui era a Milano, io all'epoca non facevo giornalista, cioè ero un appassionato di musica, punto e basta. E un giorno mi telefona un mio caro amico e mi dice: guarda, te lo dico ma io non te l'ho detto, domani a Luna Neil Young a Milano fa una conferenza stampa all'hotel tal dei tali, io l'ho saputo perché ho un amico giornalista che è stato invitato, insomma è una cosa segreta, insomma hai invitati i giornalisti, ma io te lo dico se vuoi veditela tu. Allora io mi sono intrufolato proprio alla grande, proprio l'imbucato proprio totale, e mi ricordo la faccia di tolla con cui sono arrivato alla porta dove c'era l'addetta stampa che mi fa: scusi, ma lei? E gli faccio: io, guardi, mi manda l'eco di Bergamo. Ho millantato proprio con totale. Poi dopo, conoscendo l'ambiente, questi qui li conoscono, i giornalisti dell'eco di Bergamo, quindi han capito che ero un imbucato e mi ha lasciato entrare. Ed era una conferenza stampa di Neil Young insieme a Booker T and the MGs, cioè era, al di là del tavolo c'erano lui, Booker T Jones e Steve Cropper, il chitarrista dei Blues Brothers, eccetera. Ho seguito tutta la conferenza stampa avidamente, dopodiché finito tutto, andati via, fatto le foto, firmato i dischi che doveva firmare, e l'ho aspettato fuori dall'albergo perché era il giorno prima della data del concerto, quindi era metti le 2 del pomeriggio del giorno precedente il concerto. Dico: mai più, cosa fa? Esce, andrà a fare un giro. Guarda, sto qui 20 minuti, se esce bene, se no vado a casa. E a un certo punto dalla porta dell'albergo è uscito Neil Young da solo, io gli sono andato incontro, ero lì con mia sorella e mio cognato che ha immortalato l'incontro con una fotografia, e sembriamo amiconi perché per un effetto ottico la fotografia è venuta veramente ridicola, cioè sembriamo due amici che si conoscono da una vita. E in pratica abbiamo scambiato quattro chiacchiere, lui al momento era perplesso perché si è visto venire incontro degli sconosciuti, ma poi abbiamo fatto quattro chiacchiere. In pratica lui voleva andare a fare una passeggiata a piedi per il centro di Milano e ci saluta e fa: va bene, allora io vado, ciao, grazie, è stato un piacere. È andato via, fa 10 metri, torna indietro e mi dice: scusa, ma qual è la strada più breve per arrivare in Piazza del Duomo? Allora io, che avevo lì la mia regata Fiat regata, ho detto: ma ti porto io in Piazza del Duomo. E mi fa: no, preferisco camminare. Insomma, eravamo io e Neil Young sul cofano della mia regata con la cartina di Milano, e gli dice: guarda, siamo qui, se vuoi devi camminare qui, attraversare questo parco. E quello è stato il mio primo incontro. E poi dopo lui si è dileguato tra la folla, completamente sconosciuto a tutti. Sì, beh, non è uno che viene, penso, riconosciuto per strada, almeno non in Italia. Se la gente sa chi è, chiaramente lo ferma, ma tra l'altro ha un modo così anche di travisarsi. Poi successivamente ho avuto modo di conoscerlo in veste un tantinino più professionale. Una volta, quando venne a promuovere l'album con Crosby, Stills, Nash, Looking Forward, nel 99, fece una conferenza stampa, eravamo seduti molto vicini, abbiamo cambiato quattro chiacchiere, e poi ho fatto un'intervista vera e propria, e quello è stato proprio, ho detto: boh, adesso basta. Per la rivista GQ, che mi ha chiesto di intervistare Neil Young, che questo è successo 2 anni fa, mi sembra, l'estate. Ha avuto Firenze e Verona. Esatto, l'estate del 2007. Quindi adesso ti manca solo di suonarci insieme. Non credo, però. Non mettiamo limiti. In caso siamo Neil, webcast, ci vedi Neil dalla California se vuoi fare una suonata. Noi siamo disponibili. Anyway, anywhere, anytime. Sono le 23:53 minuti ormai, quindi penso che facciamo una canzone di Neil Young. Ecco, stavo per proporvelo. Due, sì. Ma ne facciamo, ok. Facciamo Looking Forward. Ma guarda che forse Looking Forward arriviamo fino alla fine. perché sono... Non importa, non... la mezzanotte è solo, è solo un'ora e basta, poi cominciamo possiamo a fare Looking Forward. Looking Forward è una canzone molto poco conosciuta del repertorio di Neil Young. Facciamola e basta, va. Vediamo come ci viene. Come with the first rays of sun breaking through our window pane. Songs fill the air, but there's no singer there, just an old wooden guitar playing. Writing a song won't take very long, trying not to use the word old. Thinking about taking chances and doubts that still lingers in the cold. Looking forward, all that I can see is good things happening to you and to me. I'm not waiting for times to change. I'm gonna live like a free roaming soul on the highway of our love. It's good things happening to you and to me. I'm not waiting for times to change. I'm gonna live like a free roaming soul on a highway of our love. Songs fill the air, but there's no singer there, just an old wooden guitar playing. Blue Radio. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Siamo sì, ci stiamo ci stiamo un po' mettendo d'accordo qua con i Rastis su come concludere la trasmissione. Scusate se c'è stata un po' di confusione. Questa era Looking Forward, appunto un brano, come si può dire, minore, nel senso che non è elencato tra i grandi classici di Neil Young. Comunque è una canzone molto, molto bella, molto piacevole. E ne facciamo un'altra. Ecco, ok, certo. Tagliamo corto con le chiacchiere. Un classico, uno dei tanti. Facciamo un classico, dai. Siamo tutti emozionati, c'è poco da fare. Certo, è vero Stefano, cosa dici? Un'emozione grandissima, noi vecchi stagionati, io Alberto Prisco che è nascosto. Tu lo sei emozionato? Io sì, sono molto emozionato. Ok, terminiamo, abbiamo finito purtroppo questa bella cavalcata. Una cosa dobbiamo dire, dove si può trovare il tuo disco, Marco? Allora, il nostro disco si può trovare o presso il nostro sito web, anzi MySpace, www.myspace.com/RustisBand. Rusties Band. Perfetto. Lo spelling. Oppure è regolarmente distribuito sul territorio nazionale da IRD, International Record Distribution, che è uno dei più grossi distributori di musica indipendente, specialmente di matrice americana, folk, rock, blues, eccetera. Tutti i negozianti conoscono il distributore, quindi dovrebbe essere di facile reperibilità. C'è qualche tournée, qualche concerto dalle nostre bande, o qualche tournée, qualche concerto che farete adesso? Veniamo giusto da un'apertura ai Fairport Convention di domenica scorsa, che è stato un gran momento per noi, perché aprire per una band così importante ha significato moltissimo. Abbiamo la prossima data, noi stiamo in realtà già lavorando al secondo album, quindi questo è il motivo per cui siamo un po' fermi sul fronte live, che è tra l'altro una cosa abbastanza anomala, perché noi abbiamo suonato tanto esattamente. La prossima data la facciamo in provincia di Cuneo a maggio. Poi abbiamo già delle date a giugno e credo che tra luglio, agosto e settembre gireremo parecchio. Dalle nostre bande? Dalle vostre bande. Si era parlato di fare una data a Verona, ma poi non si è più fatti sentire quella. A parte che qui Verona non è proprio da queste parti. Beh, insomma, non è tanto distante. Beh, siamo lieti di avere questo microfono per lanciare un appello. Non conosciamo nessuno nelle vostre zone. Chiamate i Rusties alla vostra festa, nel vostro locale o nel vostro stadio, e sarete felici. Facciamo tutto, catering, feste aziendali, tutto compreso. A seconda di quanto ci pagano ci muoviamo in 1, 2, 3, 4, 5, possiamo portare l'orchestra volendo. Benissimo. Allora concludiamo con la title track, come da promesso. Non c'è Cristina... Ma prima l'abbiamo ascoltata, sì, fatta da Cristina. Cristina, esattamente. Non vuol dire assolutamente nulla, la sostituisci denemente con la voce. Quindi grazie di questa cavalcata, di queste due ore bellissime. Prossimo appuntamento, il prossimo disco, allora. Senz'altro. Ci tornerete col prossimo disco. Contaci, grazie a voi per averci invitato e per il supporto che avete dato a questo album. E grazie allo staff e grazie soprattutto a Michele Tosion, che chiaramente ha diretto tutto quanto. Buonanotte a tutti, prossima settimana Riccardo Manfoni, mercoledì prossimo. Rock Wave, l'onda del rock. Now you found they are gone, along with all your tears. Were you waiting for this? Have you lost just your bliss? Is that blindness or pride that's guiding your mind? Move along, turn your head on. Move along, make it work out right. Move along, Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock.